compagni musici, eh? Musicisti e musiciste, io dico musici così faccio un po', parlo per tutti, sotto un grande nome che racchiude al suo finale la parola banda. Raccontacelo tu, cominciamo a parlare di questa bella esperienza che ne comprende tante altre. Sì, in realtà siamo noi qui per la sbandata 2018, la Titubanda, che è una banda attivista romana, compie 20 anni e organizza il 5° Festival Internazionale di Bande Attiviste, che noi qui in Italia chiamiamo sbandata. Sarà il prossimo giugno e ci saranno una ventina di bande, di cui almeno una dozzina, anche di più, che vengono dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, dagli Stati Uniti, e sono tutte bande che noi abbiamo conosciuto fin dagli anni 2000. Nei primi incontri ci siamo ritrovati un po', sono nate in tanti posti diversi, però con caratteristiche simili. La Titubanda è una banda attivista, non ha direttore, ha repertori particolari, è una banda di strada, e noi quindi festeggeremo il nostro 20° compleanno al quartiere di Centocelle. Sicuramente qualcuno si ricorderà, nel 2013 ne abbiamo fatta un'altra al Parco Madre Teresa di Calcutta ed è stata una grande festa popolare. Sì, le bande comunque hanno questo grande potere poi di far scendere le persone dalle case, di portarsele dietro, insomma. Certo, è proprio così, e quest'anno vorremmo riuscire anche con questa serie di trasmissioni qui a Radio Onda Rossa, riuscire a creare una rete proprio per crearla una festa popolare. Noi suoniamo in tutte le occasioni e per tante situazioni diverse, dalle manifestazioni. A proposito, ci vedremo come al solito nell'appuntamento a sotto Revibbia, certo, il 31. Infatti, esatto, lo stavo per dire, siete sempre stati presenti. Sì, certo, giusto perché siamo a ridosso del Capodanno. E quindi ci ritroveremo, questi appuntamenti saranno anche utilizzati in qualche modo per aiutare la rete delle realtà con cui noi ci confrontiamo sempre, per una festa popolare, per riappropriarsi degli spazi di libertà e spazi di gioia. Sì, anche di musica, insomma, di musica. Perché quello pure è importante. Ma abbiamo anche facciamo sentire qualche pezzo della sbandata del 2013, tanto per dare anche un esempio musicale di quello che può essere la sbandata. L'ascolto di Radio Onda Rossa 87.900, certo. Modulazione di frequenza 40 anni. Allora, eccoci qua, siamo in mio studio, quindi con la Titubanda, e ci sono Mario, Roberto, Lucia e Riccardo, con Marta che ci sta dando una grande accoglienza. Quindi sì, è un ciclo per informare un po' tutti di quello che sta per accadere in occasione dei nostri 20 anni, perché facciamo un grande compleanno, quindi come ha detto Mario ha tutti questi aspetti. E quindi faremo un ciclo di un appuntamento, quindi al mese, in cui vogliamo raccontarvi un po' tutto quello che è successo in questi 20 anni, a cominciare da oggi, che diamo un po' un'idea, no? Come dire, generale di quello che siamo e quello che facciamo, cos'è una sbandata. Poi parleremo a gennaio della Titubanda proprio, quindi sono 20 anni di storie, vedevo aneddoti, musica, eccetera. E poi andremo a scoprire gli invitati di questa festa, a cominciare dalla Francia, dove c'è un grande fermento e dove ci sarà una puntata proprio dedicata. E stessa cosa con l'America, e dove c'è un grande fermento pure lì, c'è un grande festival che si chiama Hook, ne parleremo. E per poi andare in Germania e Austria, anche lì che dove è grande fermento. E così via, ora senza che ve li leggo tutti. Comunque poi si parlerà dell'Italia con le nostre bande gemelle, dove abbiamo cominciato tutto, quindi gli Ottoni a Scoppio di Milano, la banda Roncati di Bologna e successivamente i Fiati Sprecati di Firenze. Queste sono le delle quattro sorelle, diciamo. E poi parleremo di Roma e poi si andrà a ridosso, perché ricordiamo che la sbandata ci sarà da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio 2018, e quindi verso la fine maggio-giugno parleremo delle bande che poi arriveranno, quindi per conoscerle un po', insomma, insieme. E quindi allora Bobby, che ci dici delle motivazioni della sbandata? Perché si fa? Che cosa vogliamo dimostrare con questi eventi? Che cosa che ti ricordi? Che ci vuoi dire? Beh, la sbandata, che è iniziato molti anni fa a Milano, dove c'è stata organizzata dalla mamma di tutte le bande attiviste italiane, gli Ottoni a Scoppio di Milano, che durante una manifestazione qui a Roma conobbero la Titubanda proprio durante la manifestazione, e loro ci invitavano subito a fare questa sbandata insieme alle altre bande italiane che già erano operanti in quel periodo, quindi la banda Roncati e la Express tedesca, la Express Best Band, che era stata appena formata tramite sempre un musicista di Milano che era andato a vivere a Monaco. Quindi diciamo che la sbandata è sempre stato un momento di incontro di tutte le bande attiviste europee, italiane, e questa modalità di incontro delle bande praticamente si è espanso nel mondo, e praticamente ci sono molte queste situazioni che si ripetono, dove ci sono questi inviti fra le varie bande attiviste. In questi decenni noi abbiamo visto, abbiamo partecipato a sbandate di questo tipo, a quella Honk di Boston, a quella a Parigi, abbiamo partecipato anche alla sbandata organizzata a Monaco dai tedeschi, e abbiamo anche partecipato a sbandate fatte dalle altre nostre sorelle italiane. L'importanza di questa modalità è stata talmente grande che anche musicisti che di estrazione jazzistica hanno invitato le bande in un festival di musica e di bande tradizionali. Grazie a Pino Minafra abbiamo partecipato con tutte queste bande al festival di Conversano, ed è stata un'esperienza molto importante, proprio perché questo movimento di bande attiviste era anche un modo nuovo per rompere il repertorio che Mario ci spiegherà, che è molto particolare. Certo Bobby, se ti ricordi, il Festival di Conversano fu il primo festival dove bande tradizionali si incontrarono con queste bande alternative, e quindi anche per spiegare un po' la differenza il cambio antropologico della banda. La banda ha un'origine militare, come penso molti sanno, mentre la Titubanda ha delle modalità come tutte, come quasi tutte, come tutte le altre bande attiviste, come tutte le bande di strada, hanno dei modi di rappresentarsi differenti. Prima di tutto non hanno una divisa, e se hanno un modo di vestirsi è un modo di vestirsi ironico, un modo di vestirsi appariscente, trasgressivo talvolta, come i Cadors francesi o l'Angry March Band americana. Non usano amplificazione, per questo c'è tutto un movimento dietro che riguarda il non consumare energia o combustibili fossili per la propria musica. È tutta musica frutta del fiato delle persone. Quindi non c'è una divisa, la maggior parte delle volte queste bande non si esibiscono su un palco, le nostre bande, ma condividono lo stesso spazio con il pubblico che partecipa, quindi con un contatto veramente molto diretto con i musicisti, un contatto antico che spesso non è oggi così usuale, perché oggi quasi tutta la musica è mediata dai mezzi di riproduzione del suono, mentre la nostra musica è una musica in qualche modo antica, divide lo stesso spazio con il pubblico. Un'altra delle caratteristiche importanti di queste bande è che molto spesso non hanno la tipica gerarchia che hanno le bande di origine militare, cioè con al vertice un direttore, poi il capisezione e gli altri secondo una gerarchia, ma spesso le gerarchie non esistono nelle nostre bande e tutto si condivide in assemblea, sono organizzati, diciamo così, orizzontalmente. Quindi no, per far sentire ai nostri ascoltatori un esempio di quello che stiamo parlando, vi facciamo ascoltare da un minuto di un estratto della sbandata del 2013. Sì. Prego Bobby, dimmi. Solo vai. Piccolo aneddoto del festival di Conversano, era appena, purtroppo erano reduci dal Genova 2001. E le bande hanno lavorato anche a Genova, c'è stato anche l'incontro con Manu Chao, eccetera, eccetera. E quando andammo a suonare lì, a Conversano, c'era l'articolo di un giornale locale che diceva: la polizia di Monopoli è in stato di allerta perché arrivano le bande no global. Cioè, quello che guarda, fantastico. Due minutini della sbandata 2013. Thank you. Allora, questi erano la Express Brass Band da Monaco, che suonava dal vivo alla sbandata 2013, gruppo eccezionale che speriamo tornerà anche quest'anno. E adesso un attimo Lucia, che ci spiega altre cosine. Ma questa è la presentazione della sbandata che abbiamo fatto nel 2013, la riproponiamo. La sbandata è una grande festa popolare di strada, come diceva Mario anche prima. L'anima hanno bande musicali capaci di scatenare l'entusiasmo del pubblico, coinvolgendolo in un rapporto conviviale, immediato, ravvicinatissimo. Le bande suonano per strada, sfilando in parata o fermandosi in piccoli spiazzi per trascinare il pubblico nell'euforia della festa. E infatti nel 2013, ma penso che lo riproporremo anche come formula nel 2018, ci sarà quello di dividere le bande nel quartiere per piazze o altre situazioni, e la mattina o il pomeriggio, insomma, del fine settimana, e poi diciamo ci sarà il corteo che nel 2013 è sfilato per le strade di Centocelle, un corteo di 300 musicisti che insomma è stato molto molto bello e partecipato. Il contatto diretto tra musicisti e spettatori crea un'interazione unica, un'alchimia travolgente, impregnata di spontaneità, di emozioni forti, di calore umano. La tradizione delle sbandate, consolidata ormai da anni con analoghe manifestazioni già organizzate nel circuito delle bande in movimento a Milano, Parigi, Monaco, Firenze, si estende in questa occasione per diventare un vero e proprio meeting internazionale delle bande di strada. Anche nel nostro paese, dalle lunghe tradizioni bandistiche, sta emergendo una nuova realtà, una serie di formazioni musicali più libere dagli stereotipi, più spregiudicate nell'approccio con il pubblico e nella scelta del repertorio, fortemente sensibili alle tematiche sociali e all'impegno politico. Sulla scelta del repertorio ci potrebbe illuminare anche Mario un po' di più, anche di Riccardo, che insomma sono... Sì, certo. Come prima stavamo cercando di definire in che cosa sono diverse le bande di strada, in particolare le bande attiviste, dalle bande tradizionali. Quindi no palco, no amplificazione, condivisione con il pubblico, non divisa e organizzazione gerarchica, piatta e quindi orizzontale. Ma una delle caratteristiche veramente che le caratterizzano sono un repertorio diverso. Se pensiamo alla banda tradizionale, la banda tradizionale conserva un repertorio antico ancora di bande di arie d'opera o di marcette. Le bande che si evolvono fanno i temi delle colonne sonore, mentre le bande questo tipo di bande, e nella sbandata ne avrete proprio l'occasione di sentire, ogni banda ha un suo repertorio molto particolare e specifico, sì, perché proprio non c'è un genere che viene riprodotto dalle bande e quindi in qualche modo copiato dai bandi in banda. Ci sono dei pezzi in comune, ma ogni banda ha una sua caratterizzazione. Per esempio le bande italiane da sempre, gli Ottoni hanno avuto un repertorio sempre, gli Ottoni a Scoppio di Milano hanno avuto un repertorio più, così per semplificare, più politico, e la banda Roncati un repertorio più popolare, che si rifaceva alla tradizione italiana, mentre la Titubanda noi da sempre abbiamo avuto un repertorio internazionale, quindi di bande, di pezzi che vanno dal Sud America al rock, al punk, ai brani medio orientali. I fiati sprecati di Firenze sono sempre stati più scanzonati con le canzoni, con le canzoni pop in qualche modo, rifatte per banda, e quindi riportare questi differenti repertori per un pubblico che quindi li riascolta attraverso la mediazione del suono degli ottoni, degli strumenti a fiato, gli arrangiamenti di tutte musiche diverse, per non parlare poi dei repertori francesi o americani. più tendenti al funk, più tendenti alla tradizione di New Orleans, quella la tradizione delle bande di strada. Beh, su questo mi ricordo c'era sempre un sempre lì al Festival di Conversano, praticamente c'era un giornale sempre locale, che in questo caso era un giornale molto legato al festival, e dove metteva, sottolineava questa differenza fra le bande di movimento e le bande classiche, sia nell'atteggiamento e sia nella scelta del repertorio, e invitava appunto le bande cosiddette tradizionali a rifarsi a queste, alle bande di movimento, perché le ritenevano più nuove, ma anche più coinvolgenti e più soprattutto con il rapporto con il rapporto con il pubblico. Una cosa che volevo sottolineare che anche le sbandate vari chiamiamoli meeting di internazionali che ci sono, che si presenti in tutto il mondo, anche da poco anche a Rio de Janeiro, e hanno delle particolarità, ognuno un po' diversa dall'altra, perché per esempio la sbandata parigina è molto politica, e punta molto all'intervento mirato sul sociale, su situazioni che per esempio questa sbandata è stata, loro hanno lavorato molto per intervenire sulle questioni dei migranti. E infatti siamo andati a suonare in quel posto dove c'era un accampamento di migranti, con tutte tende sotto un po' cavalcavia. Cioè loro quindi hanno questa modalità, l'Honk di Boston ha un'altra modalità, la sbandata romana diciamo che di fatto si caratterizza perché è una decide di fare l'intervento nel sociale scegliendo di creare una situazione popolare di rottura, soprattutto nei quartieri dove spesso il degrado, che tanto si parla ultimamente, soprattutto quello del parco di Centocelle, di Santa Maria Teresa di Calcutta, dove in questi giorni l'amministrazione decanta con tanta felicità che stanno mettendo le videocamere per risolvere il problema del degrado di quel posto, mentre invece dovrebbero favorire situazioni come appunto l'intervento sul sociale, come le manifestazioni, come appunto la sbandata romana. Quindi il nostro intervento sul sociale viene visto in questa maniera, soprattutto in posti come Centocelle, dove ormai c'è un livello di degrado anche culturale del territorio molto portato a essere il territorio dormitorio, e portare una cosa del genere per noi è un gesto molto, ma molto politico, soprattutto quando la musica è presente nelle strade. E poi possiamo fare una cronologia, se vogliamo fare una cronologia delle sbandate, dalla prima fino all'ultima, in modo così. Ma questa qua dovrebbe essere la quinta, quindi ce ne sono state altre quattro. Intanto noi vi facciamo ascoltare un pezzo della banda Roncati, che prima dicevamo, e per farvi sentire un po' come suona. Thank you. possiamo fare un po' di cronostoria, perché nel 2018 sarà la quinta sbandata, quindi probabilmente, esatto, se non siamo male matematicamente, ce ne dovrebbero essere state quattro prima. Certamente, le sbandate ci sono state nel 2001 al Pigneto, nel 2004 a San Lorenzo, nel 2005 alla ex SNIA Prenestino e nel 2013 a Centocelle, come abbiamo detto, al Parco Madre Teresa di Calcutta. E proprio a partire dal 2001 e nei primi anni 2000 che si è formata la scena, questa scena, perché prima le bande attiviste erano un po' isolate, lavoravano un po' ognuna per conto proprio, ma è negli primi anni 2000 che si incominciano ad incontrare. Infatti mi ricordo benissimo nel 2004 a San Lorenzo incontrammo le bande francesi, la banda dell'Express Brass Band l'avevamo già incontrata nel 2001, nel 2004 incontriamo i Cador dalla Francia, incontriamo poi nel 2005 l'Angry March Band da New York, e da qui poi che si incomincia a creare una scena, cioè anche gli americani, gli statunitensi, sì, grazie. Gli statunitensi organizzano dei festival di bande attiviste a Boston, e oggi è diventato, loro riescono a farlo ogni anno, sono veramente molto bravi. Qual è una delle loro particolarità? Una delle loro particolarità è molti praticamente hanno creato una situazione tale dove praticamente le persone e gli abitanti di Somerville, che è un sobborgo di Boston, praticamente ospitano i musicisti provenienti da tutto il mondo, ed è una cosa molto bella, perché praticamente sono arrivati a livelli tali che ogni anno la gente va lì e di spontanea volontà dice: io voglio ospitare dei musicisti. Ed è una cosa che noi vorremmo puntare qui a questa prossima sbandata. Esatto, questa partecipazione, questo modo di fare, di organizzare una festa popolare, di accogliere le altre bande, di farle mangiare bene, è diventato proprio il modo di fare delle bande attiviste, che quindi si aiutano l'un l'altro e cercano di coinvolgere le realtà con cui si rapportano, per l'ospitalità, per le cucine, e un po' è proprio la realizzazione di una festa popolare. In questo c'è un messaggio politico molto forte, il riappropriarsi della capacità di fare una festa, di fare una festa che non sia indotta e alienata, ma venga spontaneamente dal mangiare insieme, dal suonare insieme, insomma, a delle tradizioni veramente molto antiche, e che però oggi sembrano quasi essere ritornate ad essere prepotentemente indispensabili per poter fare una festa vera, una festa in cui ti ci ritrovi. E quindi facciamo una breve cronostoria, che Mario già ha accennato. Come sono state organizzate queste altre rispetto a quella che faremo nel 2018? C'eri tu, Roberto, c'eri tu, quindi nel 2001 c'era già Bobby. Diciamo che la differenza sostanziale enorme che ci sarà nella prossima sbandata è che questa sarà la prima sbandata autofinanziata, completamente autofinanziata, perché abbiamo deciso che dopo 20 anni il nostro percorso debba continuare nel percorso dell'autogestione totale. Le precedenti sbandate sono state finanziate tramite dei bandi che abbiamo vinto, che abbiamo partecipato, però quest'anno abbiamo deciso invece di non partecipare a nessun bando, di autofinanziarci e di coinvolgere tutte le realtà che abbiamo incontrato in questi 20 anni, e che sono moltissime, che possono essere dai centri sociali, dalle organizzazioni Onlus che abbiamo incontrato, dalle occupazioni di case, veramente sono talmente tante che non riesco neanche a ricordarmele, e c'è Mario che cerca di suggerire, tra queste anche addirittura delle scuole, dove ci sono state delle scuole che hanno capito l'importanza di questo progetto. Quindi scusa, ma Bobby, intanto io ho trovato un pezzo comune, un raro pezzo de comune che penso che conoscano molti. Questo è direttamente dalla sbandata 2013. Questo è un pezzo comune che suoniamo con tutte le bande, ed è ha parecchie particolarità e anche qualche aneddoto questo pezzo, perché una particolarità è che è un pezzo che molti migranti conoscono. Bella Ciao viene conosciuta da tutti i migranti presenti qui in Italia, quindi tutte le varie situazioni dei migranti africani e quelli medio orientali, e questo ci fa riflettere un pochettino di come questo pezzo veramente ha viaggiato nel mondo. Un piccolo invece aneddoto di questo pezzo, Bella Ciao, è che praticamente stavamo suonando a una manifestazione contro l'articolo 18, la manifestazione dove si voleva difendere l'articolo 18, e suonando in piazza quella mitica manifestazione di 3 milioni e mezzo di persone, praticamente incontriamo un trombonista proveniente da New York, e lui conosceva questo pezzo. Lui si mette a suonare insieme a noi, e poi scopriamo che lui è un musicista della Andy Marching Band, che poi abbiamo invitato in continuazione nelle nostre sbandate. È qui che si apre un po', vedete, l'orizzonte, no? Che andiamo a conoscere quelle altre bande dagli Stati Uniti. Ti incontri così, suonando, e stringi amicizia in questa cornice di convivialità, diciamo, no? Che va da appunto, come dire, l'accoglienza, fare le cose insieme, no? E ok, allora a caso però stava al corteo, esatto, tutti i nodi vengono al pettine in questo caso positivamente. Quindi appunto proprio questa presenza continua in strada, in situazioni del genere, sempre in situazioni di disagio sociale, situazioni di lotte, che noi spesso traiamo molte conoscenze e collaborazioni. È proprio per questo che quest'anno questa nuova edizione della sbandata la vogliamo fare autofinanziare e coinvolgere tutte le situazioni che noi abbiamo conosciuto in questi anni, anche le cucine popolari, situazioni legate anche ai migranti stessi, eccetera eccetera. E diciamo che prima sarà ripetuto nelle prossime puntate, noi cominciamo già a lanciare un appello qui, dove chiediamo che un appello a tutte le persone, se possono ospitare dei musicisti durante quei 3 giorni che abbiamo già indicato, che sono fine giugno e inizio luglio. Questo sarebbe un'esperienza molto bella, e ripetere quello che sta succedendo, quello che succede ormai da 10 anni a Somerville, vicino Boston. E allora sentiamoci questi Second Line Social Aid, un breve brano della tradizione statunitense. Eccolo qui. Per concludere la nostra prima trasmissione qui a Radio Onda Rossa sugli 87.9 e ci diamo appuntamento per innanzitutto il 31 dicembre, la mattina del 31 dicembre sotto il carcere di Re Bibbia per Odio il Carcere, intorno alle 10, intorno alle 10 di mattina. E all'angolo tra via Raffaele Maglietti e Bartolo Longo. Ci saremo anche noi come titubanda e ci saranno, non so, altri musicisti, forse la Morga, eccetera. Faremo un po' di casino là sotto per farci sentire. Va bene, e niente, vuoi aggiungere qualcosa? Allora io volevo ricordare, se ci volete scrivere, dire qualcosa, noi abbiamo la mail titubanda@yahoo.it, ci trovate pure su Facebook, se volete parlare invece della sbandata c'è anche la pagina Sbandata Romana. E la prossima volta noi ci vediamo il 18 gennaio e parleremo della titubanda e di questi 20 anni di emozioni e di musica. E quindi allora, come per salutarci, volevamo, io vi faccio sentire questo pezzo invece completamente diverso dai Cador, una banda di Montpellier, sentite che carini che sono. I Cador da Montpellier. Noi ci salutiamo per questa volta, grazie di averci ascoltato. Ci rivediamo il 31 dicembre sotto Rebibbia o su Radio Onda Rossa il 18 gennaio per la prossima puntata. Grazie a tutti, un saluto a tutti. E soprattutto ringraziamo Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao.